sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Si cerca l'aggressore della Caffarella, c'è un identikit Alemanno contro i raid punitivi, non si speculi sulla paura. Intanto il governo pensa ad un decreto d'urgenza contro la violenza sulle donne, ma i magistrati dicono no a leggi speciali, basterebbe applicare le pene. Sardegna al voto, alle 11 era andato alle urne il 54,8% degli aventi diritto, i seggi chiuderanno alle 15. Il Giappone vede nero, tonfo del prodotto interno lordo a meno 12,7% su base annua. Il terzo trimestre del 2008 è crollato al ritmo peggiore degli ultimi 35 anni. L'antitrust multa le compagnie TIM e Vodafone, tariffe cambiate senza il consenso degli abbonati. €1 milione al conduttore Paolo Bonolis, ma quant'è il giro d'affari del Festival di Sanremo? GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. La violenza subita ieri dalla 14enne e dal suo fidanzato a Roma e nel corso della notte scorsa quella ai danni di una studentessa 21enne sudamericana a Milano sono solo purtroppo le ultime di una serie che riempie ormai quasi quotidianamente le cronache, stranieri e italiani, giovani e minori tra i colpevoli. È ormai davvero un tema d'emergenza, tanto che il governo sta pensando ad un decreto d'urgenza. E questa mattina intanto a Roma è caccia all'uomo per l'ultimo episodio di ieri, cui sono seguiti anche, come ricordavamo nei nostri titoli, raid punitivi. Allora andiamo al parco alla Caffarella, dove c'è Paola Cavadi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Mentre vanno avanti nel parco della Caffarella e nella zona limitrofe le ricerche dei due aggressori, di cui lo ricordiamo esistono due identikit forniti dalle vittime, nel quartiere esplode la rabbia di una parte degli abitanti. Ieri sera, intorno alle 20:30, un gruppo di una ventina di persone armate di bastoni e a volto coperto è entrato in un negozio di kebab di via Carroceto, a poche centinaia di metri dal parco, ed ha aggredito quattro cittadini romeni che sostavano lì davanti al locale. Due di loro hanno riportato ferite e contusioni di una certa gravità. Questo è il racconto del titolare del negozio, sentiamolo. Si sono menati i ragazzi, un gruppo di ragazzi li ha menato, gli altri quattro ragazzi, e poi sono fuggiti. Ma quanti erano quelli che sono arrivati ad aggredire? Sentito solo una ventina. Sì, erano incappucciati. Per quello che ho sentito io, l'ho visto uno, gli altri non li ho visti. E i ragazzi che sono stati aggrediti, tu li conoscevi? Sono abituali? Li avevo di vista, perché sono clienti abituali. Sì, due sono finiti in ospedale, abbastanza gravi, non gravissimi, ma perdevano sangue. Gli altri, feriti lievi. I carabinieri stanno indagando per capire se esistono legami tra la violenza della Caffarella e l'aggressione di ieri sera ai quattro romeni. E c'è chi vuole speculare sulla paura della gente, dobbiamo dire chiaramente che non ci si può fare giustizia da soli. È stato questo il commento del sindaco di Roma Alemanno durante un sopralluogo in uno degli insediamenti abusivi di Castelfusano, dove da stamattina sono in corso controlli e sgomberi. Oggi sono 28 gli insediamenti di baracche che saranno abbattuti nella zona del litorale romano che va da Castelfusano a Ostia. L'operazione andrà avanti per circa una settimana. Tornando sul fronte delle indagini, lo ricordiamo, sul luogo dell'aggressione di venerdì sera i carabinieri hanno trovato tracce biologiche che gli inquirenti definiscono importanti. Si attendono comunque sviluppi. Intanto sono arrivati a Roma 15 ufficiali di polizia romeni che affiancheranno le forze dell'ordine italiane nelle indagini sulla criminalità organizzata proveniente dalla Romania e da Roma. È tutto a voi studio. Grazie Paola Cavadi. Questo dunque l'aspetto che riguarda il rinforzo delle forze di sicurezza sul territorio, ma c'è anche un aspetto politico più generale, perché su questa emergenza, l'emergenza delle violenze, il governo ha intenzione di dare un segnale forte. Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe infatti anticipare con un provvedimento l'entrata in vigore di alcune misure del disegno di legge sulla sicurezza, disegno di legge già approvato dal Senato. Tra queste misure l'esclusione degli arresti domiciliari per chi è accusato di stupro. Abbiamo sentito Isabella Rauti, capo del Dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità. Il disegno di legge contiene misure tese a rafforzare la tutela penale contro i reati di violenza sessuale, come introducendo aggravanti connesse alla modalità dell'azione, diciamo, del colpevole, e aumentando la pena in caso di recidiva, che in questi reati tra l'altro purtroppo è frequente, e anche introducendo meccanismi che portino ad un'accelerazione dei tempi di giudizio e della maggiore certezza della pena. Quindi bisogna rivedere gli aspetti normativi per un sistema che sia più efficace e, a mio avviso, più punitivo, e poi bisogna affrontare anche il discorso, posso dire, culturale di costume. C'è un po' la riproposizione della violenza, della sopraffazione come modalità di relazione fra i generi, come se si volesse ripristinare delle primordiali gerarchie che sono state in qualche modo contraddette. Certamente nel caso di minorenni bisogna considerare delle aggravanti, perché si tratta veramente di corpi di donna, ma di età anagrafica di bambine, la cui psicologia evidentemente resterà fortemente condizionata dall'aver subito un atto così, non solo così atroce, ma anche così mostruosamente innaturale. Così dunque Isabella Rauti, capo dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità. Intanto dall'opposizione il segretario del PD Walter Veltroni interviene. Noi siamo favorevoli, ha detto questa mattina, ad ogni provvedimento che serve ad aumentare le forze di polizia per le strade, che restituisce loro risorse tolte dalla finanziaria, che gli dà maggiori strumenti. Siamo favorevoli a garantire l'effettività della pena comminata, ma siamo contrari a ogni forma di demagogia, come le ronde che in questo momento creano un clima pericoloso nel paese. E a frenare però sono anche i magistrati. L'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato delle toghe, denuncia infatti che con l'organico a disposizione soprattutto al sud lavorare è diventato impossibile. Poi però anche critiche all'idea di una norma sul divieto di arresti domiciliari, come dicevamo prima, per gli accusati di stupro, perché, dicono i magistrati, si introdurrebbe un rischioso doppio binario nel processo penale, per di più agendo solo in fase cautelare senza fare nulla, questa è l'accusa, per garantire la certezza della pena. Paolo Piacenza ha sentito il segretario generale dell'ANM, Giuseppe Cascini. Noi abbiamo da tempo avvertito sui pericoli che le nuove disposizioni avrebbero determinato una situazione di grave carenza di organico e di scopertura. Purtroppo oggi quell'allarme si rivela fondato e abbiamo il rischio di chiusura di molte procure in Italia, la gran parte al sud. In questo contesto parlare di sicurezza e di certezza della pena è francamente grottesco. Questo perché succede? Succede perché il Parlamento ha inserito una norma che impone il trasferimento di regione per i magistrati che decidono di andare a fare il pubblico ministero, e in più ha previsto il divieto per i magistrati di prima nomina di rivestire l'ufficio di sostituto procuratore. Queste due disposizioni insieme hanno creato una drastica riduzione di presenze negli uffici di procura senza la possibilità di farvi fronte con i magistrati di prima nomina, e purtroppo questo comporta la sostanziale paralisi di questi uffici. In relazione ai ripetuti episodi di stupro di questi giorni, il governo ha in programma un decreto per escludere i domiciliari per gli accusati di stupro. È un provvedimento utile? Guardi, le misure emergenziali che creano un diritto eccezionale per singole categorie di reati non sono mai la risposta giusta ai problemi criminali. La vera risposta sarebbe nel rendere efficace l'azione investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura, efficace il processo e l'applicazione della giusta sanzione all'esito di un processo. Invece noi abbiamo una intervento legislativo che, riducendo drasticamente la possibilità di utilizzare intercettazioni telefoniche, di fatto impedisce l'individuazione dei responsabili di gravi reati. Un disegno di legge del governo sul processo penale che rallenta in maniera insopportabile le già fortissime lungaggini del processo penale. Abbiamo una situazione di grave crisi di funzionalità e di efficienza, taglia le risorse. In questa situazione nessuna misura di carattere emergenziale può dare una risposta davvero rassicurante alle esigenze di sicurezza. C'è un'altra misura che il governo intende anticipare per decreto, quella delle ronde di volontari per un maggiore controllo del territorio. Qual è la sua valutazione in merito? Io non credo che possa aiutare la sicurezza dei cittadini in improvvisazione e violenza nelle strade. Questo è pericoloso anche per la sicurezza dei cittadini. E noi voltiamo pagina, ma restiamo ad un'indagine giudiziaria in qualche modo, quella per presunte tangenti in Basilicata. Oggi è stata decisa infatti la sospensione della concessione per estrazione di idrocarburi alla Total. Il GIP della Procura della Repubblica di Potenza, Rocco Pavese, ha sospeso la concessione denominata Gorgoglione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in Basilicata. Il provvedimento riguarda la Total Italia impegnata nei lavori per l'avvio delle estrazioni petrolifere nel giacimento di Tempa Rossa, situato in provincia di Potenza. Secondo il GIP, la misura cautelare di sospensione deriva dall'eccezionale gravità del caso per porre fine alle sistematiche pratiche illegali poste in essere dalla Total Italia S.p.A. nell'ambito delle attività legate allo sfruttamento della concessione Gorgoglione. Sono inoltre in corso perquisizioni presso le sedi di altre società coinvolte nell'inchiesta dello scorso dicembre del PM Henry John Woodcock. In quell'occasione si scoprì un giro di tangenti per appalti legati all'estrazione di petrolio nel giacimento di Tempa Rossa, uno dei più grandi d'Europa sulla terraferma. Le indagini hanno coinvolto 11 persone, tra queste l'ex amministratore delegato di Total Italia, Lionel Levà, finito agli arresti, e il deputato lucano Salvatore Margiotta. La concessione Gorgoglione prevede la realizzazione di un centro oli e di un centro di stoccaggio di GPL. Gennaro Grimolizzi, GR24, Il Sole 24 Ore, Potenza. E adesso invece andiamo a Genova per parlare del drammatico epilogo ieri della sfida sul campo di calcio tra Genoa e Fiorentina. Come sapete, al termine della partita ci sono state contestazioni dei tifosi genoani. Uno di loro è stato investito dal pullman che doveva trasportare i giocatori della Fiorentina. Allora andiamo a Genova ad Andrea Ferro. Sì, buongiorno da Genova. Le condizioni di Gabriele Amato, 36 anni, restano stazionarie nella loro gravità. Decisive saranno le prossime ore, ha detto in mattinata il direttore sanitario dell'ospedale San Martino, Giovanni Orengo. Si dovrà valutare se e come intervenire chirurgicamente. La nuova TAC alla quale il tifoso del Genoa è stato sottoposto nella notte ha escluso lesioni interne, ma il quadro clinico resta molto molto critico per la gravità e il numero delle fratture. Urtato dal pullman e trascinato sotto le ruote, Amato ha riportato fratture al torace, al bacino, alla gamba destra e lesioni al volto. In seguito allo schiacciamento del torace era andato anche in arresto cardiaco ed era stato rianimato sul posto dall'equipe del 118. Sul fronte delle indagini, intanto, l'autista del pullman della Fiorentina nella notte è stato sentito dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. Ha raccontato di essere stato costretto ad accelerare per sfuggire all'assalto del mezzo da parte di un gruppo di ultra del Genoa e di non essersi accorto di aver investito un tifoso. Infatti ha proseguito la marcia. Al momento l'uomo non risulta indagato. Nella notte il pullman è stato sottoposto ad una serie di rilievi. Al vaglio della Polizia Municipale ci sono varie testimonianze e video registrati da alcune telecamere posizionate nella zona dell'incidente. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro, davvero un altro brutto episodio ancora una volta fuori dagli stadi. E noi salutiamo anche Gigi Garanzini. Buongiorno Gigi, davvero un episodio che in una giornata come ieri non avremmo voluto vedere, mai avremmo voluto vedere. Sì, però questi episodi gravi fuori dagli stadi maturano dentro. Il caso di ieri è emblematico. Questo ragazzo, che poi non è più un ragazzo perché è ampiamente un adulto, è stato vittima di un'atmosfera che si è creata all'interno dello stadio dopo il pareggio della Fiorentina a tempo scaduto, una cosa senza senso in cui testimoni oculari e testimoni di ogni genere raccontano, ma anche aggressioni, raccontano di gente che ha perso la testa, ma gente di mezza età, anziani in tribuna, che si sono rivoltati contro questa chissà quale ingiustizia, che invece era un normale epilogo di una partita di calcio, un po' a sorpresa. Insomma, è in questo contesto che maturano queste tragedie, quindi purtroppo non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. E forse anche su questo bisognerà riflettere. Grazie Gigi Garanzini, che è inutile ricordare ritroveremo alle 14, gli lasceremo la linea poi al termine di GR Extra Large. E tra poco apriremo invece la pagina elettorale, seggi ancora aperti infatti in Sardegna per le elezioni amministrative. Alle 11 aveva votato quasi il 55%. Prima però vi proponiamo un consiglio letterario. È stato uno degli scrittori più prolifici ed amati del Novecento, con oltre 700 milioni di copie vendute e i suoi libri tradotti in più di 50 lingue. Stiamo parlando del belga Georges Simenon, di cui ricorre quest'anno il ventennale dalla scomparsa. È stata messa insieme da un collezionista, Romolo Ansaldi, la più grande nonché la più completa raccolta privata di documentazione sullo scrittore Georges Simenon. E solo una piccolissima parte di questa raccolta dà vita a una mostra inaugurata da pochi giorni a Santa Margherita Ligure e in programma fino al 5 aprile. Si intitola Mondo Simenon ed è suddivisa in due diverse sedi espositive dislocate nel parco di Villa Durazzo. Materiali rari come volumi in prime edizioni, foto d'epoca, manifesti e locandine cinematografiche, ma anche documenti ed illustrazioni originali di Pinter. A 20 anni dalla scomparsa dello scrittore, creatore di numerosi personaggi e non soltanto del commissario Maigret, Santa Margherita, oltre alle due mostre, ha voluto ospitare anche un convegno di studi, cui ha partecipato anche uno dei figli del romanziere, John Simenon. E come abbiamo anticipato, anche il collezionista Romolo Ansaldi, che ha messo a disposizione i documenti della sua raccolta privata. Gli abbiamo chiesto quando è iniziata la sua passione per Simenon. Ribellione. Io a 14 anni, nel 42, c'era la guerra, noi eravamo sfollati sopra Genova, siccome a Genova bombardavano per mare e per aria. Dal mese di giugno mi recai in centro per vedere i quadri, i promossi, i bocciati. Promosso sono sempre stato il primo a scuola, mai il secondo. E tornando a casa, sulla bancarella vidi il libro, Pietro Lettone. Me ne innamorai, cominciai a leggerlo. In un prato mi vide il curato il libro, mi dice: che libro leggi? Questo non lo conosco, Simenon. L'indomani mattina il libro non esisteva più, bruciato, perché il curato aveva visto che Simenon era all'indice, l'aveva detta mia zia, l'aveva presa e l'aveva bruciato. Ribellione, voglio leggere tutti i Simenon. E li ho letti tutti, credo di essere l'unico, neanche il figlio li ha letti tutti. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:20, le notizie di oggi extra large. All'indomani della violenza ai danni di una ragazzina al Parco della Caffarella a Roma, il governo pensa ad un decreto d'urgenza contro la violenza sulle donne. Allo studio l'ipotesi di non concedere a chi è accusato di stupro i domiciliari. Ma l'associazione Magistrati boccia l'ipotesi. Non servono leggi speciali, dicono le toghe, ma la certezza dei tempi del processo e della pena. Intanto alla Caffarella questa mattina è caccia all'uomo. Ieri sera a Roma ci sono stati anche raid contro rumeni. Il sindaco Gianni Alemanno dice: non bisogna farsi giustizia da soli. Nel quartiere la comunità straniera reagisce, abbiamo paura, così dice anche al microfono della nostra inviata. Paura che mi fa, che cosa che sento, non è solo paura di quello che succede, i stupri che sono orrendi, ma paura di eventuali vendette, di problemi che ci sono, che può diventare un clima tremendo, tremendo. Sardegna, seconda e ultima giornata di voto per l'elezione del governatore, il rinnovo del Consiglio regionale, seggi aperti fino alle 15, poi scatterà lo spoglio. Alle 11 di questa mattina aveva votato quasi il 55% degli aventi diritto. Matteo Renzi è il candidato del centro-sinistra per la carica di sindaco di Firenze alle prossime amministrative di giugno, con il 40,52% dei voti. Ha ottenuto la candidatura alle primarie del centro-sinistra. Tonfo del prodotto interno lordo giapponese, meno 12,7% su base annua, e nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno è stato il terzo trimestre negativo consecutivo, per la prima volta in 7 anni, al ritmo peggiore però degli ultimi 35 anni. Il GIP di Potenza ha deciso lo stop per un anno della concessione per la produzione di idrocarburi in Basilicata per la Total, perquisite sedi di altre società coinvolte nello stesso procedimento che lo scorso dicembre aveva portato anche agli arresti dell'amministratore delegato del progetto Tempo Rossa. L'accusa è di tangenti. Multe alle compagnie TIM e Vodafone. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti deciso una sanzione da 500.000 euro ciascuno, il massimo applicabile in questo caso, per modifica unilaterale sistematica dei piani tariffari senza fornire adeguate informative al consumatore. L'indagine era partita da una denuncia di altro consumo. Fitto il programma della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. A Roma in questi minuti sta incontrando Gianfranco Fini, il suo omologo. Con Obama è iniziata una nuova era di rapporti con l'Unione Europea, ha detto. E ora apriamo la pagina politica con le elezioni regionali in Sardegna. Qui con noi Daniele Biacchessi. Sì, dalle 15 in punto le finestre di Radio 24 in tutti i giornali radio sulle elezioni in Sardegna, un test non solo regionale ma ormai diventato un test politico nazionale. Questa è la valenza: 1.473.054 elettori, 5 candidati: Renato Soru della lista Soru Presidente, Ugo Capellacci del Popolo delle Libertà, Peppino Balla del Partito Socialista, i due indipendisti Gavino Sale e Giacomo Sellai. In diretta per raccontarci dalle 15 lo spoglio delle schede, Roberta Secci, buon pomeriggio. Dal centro elaborazione dati della regione potremo fornirvi dati sull'affluenza definitiva. Stamane, appunto, dicevamo i votanti sono stati circa il 55%, ieri alle 22 aveva votato solo il 44,9%. Il sistema elettorale che ha adottato è poi quello delle regioni ordinarie, nonostante la Sardegna abbia uno statuto speciale. Con questo sistema vincerà il candidato fra i 5 in corsa che avrà il maggior numero di voti, a prescindere dall'entità dei consensi riportata dalle liste circoscrizionali provinciali a lui collegate, quindi a prescindere dal risultato della coalizione che lo sostiene. È consentito anche il voto disgiunto, cioè gli elettori possono dare il voto a una lista circoscrizionale non collegata al presidente per il quale hanno espresso la preferenza. Sarà infatti il presidente vincente con la sua lista regionale a governare in ogni caso, con un premio di maggioranza che può comportare anche un aumento del numero di seggi del Consiglio regionale. Per esempio nel 2004 si passò da 80 a 85 seggi. Vedremo cosa accadrà stavolta. I primi dati a disposizione saranno proprio le percentuali di voto dei presidenti. Da Cagliari è tutto, ci ricollegheremo più tardi. Bene, bene, grazie. Ricordo anche lo speciale di Radio 24 all'interno del giornale delle 19, 8 minuti per raccontarvi e per fare il punto sulle elezioni in Sardegna con Roberta Secci, come avete sentito da Cagliari, quindi dalla sede della presidenza della regione Sardegna, con due inviati a Roma, con Andrea Viali che seguirà il Popolo delle Libertà e con Elisabetta Fiorito il Partito Democratico, e con un commento di Stefano Volli. Naturalmente con Daniele Beacchessi. Grazie e a più tardi. Intanto a Firenze il Partito Democratico ha chiamato i suoi elettori a scegliere il candidato sindaco. I partecipanti hanno scelto un giovane di 34 anni. Andiamo a Firenze, Ubaldo Cianciulli. Buongiorno, sì, Matteo Renzi è il candidato del PD che questa notte ha vinto le elezioni primarie tra i cittadini, e gli altri candidati che sono usciti sconfitti sono Lapo Pistelli, Daniela Lastri, Michele Ventura e Eros Curcolini. Pochi minuti fa Matteo Renzi ha iniziato la propria conferenza stampa, ha detto quella di stanotte è stata una vittoria del rinnovamento per un candidato giovane. Matteo Renzi è un candidato giovane per non solo anagraficamente ma anche per quello che riguarda Palazzo Vecchio. Il presidente uscente della provincia di Firenze già da 4 anni lavora, diciamo, qui sulla piazza fiorentina, e ha deciso di scendere in campo anche per Palazzo Vecchio, terminando un anno prima il proprio mandato naturale. Ora dice dovremmo lavorare tutti insieme anche agli altri 4 candidati che sono usciti sconfitti, che Matteo Renzi è riuscito a mettere, diciamo così, in fila. Ha raccolto poco più di 15.000 voti e grazie a poco meno di 200 voti, 196 voti, ha evitato il ballottaggio, raggiungendo il 40,58% dei consensi. E Matteo Renzi aspetta, ha detto, di vedere anche quello che sarà il candidato del centrodestra, del PDL, per la corsa a Palazzo Vecchio, augurandosi che si tratti di un candidato che possa rimanere comunque in ogni caso, che sia valido e che possa rimanere in ogni caso in consiglio comunale, molto più di quello che ha fatto il suo predecessore. Non si è espresso su possibili avversari, ma ora sta proseguendo la conferenza stampa. Ricordiamo quindi Matteo Renzi è uscito vincitore nelle primarie del Fiorentino per la carica al sindaco di Firenze. Grazie allora a Ubaldo Cianciulli. Apriamo invece la pagina delle notizie dall'estero con una notizia davvero clamorosa, rivelata dal quotidiano britannico Sun, che parla, con la conferma del Ministero della Marina britannico, di una possibile collisione tra due sottomarini nucleari, uno francese e l'altro appunto britannico. Stavano effettuando delle manovre nel mare del nord quando c'è stato un avvicinamento, un tamponamento tra il britannico Vanguard e il francese Le Triomphant. Secondo la fonte del Ministero della Difesa britannico, l'esplosione nucleare era improbabile, ma una fuga radioattiva invece era possibilissima. ed è di 30 morti. Invece il bilancio di un attacco missilistico compiuto questa mattina da parte di un drone, cioè un aereo senza pilota americano, nel nord-ovest del Pakistan. L'obiettivo americano dei missili era un campo di addestramento che sarebbe stato sotto il comando di un capo talebano afghano, seppur in territorio pakistano. Bilancio dell'attacco: 30 vittime. Non ho alcuna intenzione di stare in un governo di unità nazionale con Netanyahu. Questo è il messaggio che ha fatto il giro del mondo poi del leader di Kadima in Israele, Tzipi Livni, intercettato appunto ieri dalle telecamere durante il Consiglio dei Ministri. Proseguono intanto le trattative per la tregua a Gaza. 60 giorni per formare un governo di unità nazionale. Sarebbe questo l'ultimatum posto dal governo egiziano alle fazioni palestinesi. Lo riferisce oggi il quotidiano Ash-Sharq al-Awsat. L'indiscrezione trova conferma da fonti di Al-Fatah citate dal giornale Al-Hayat, che parlano di un nuovo linguaggio di Hamas molto desideroso di appianare tutte le questioni sospese con il rivale Abu Mazen addirittura prima dell'inizio delle trattative fissate per il prossimo 22 febbraio in Cairo. Sul versante della trattativa indiretta con Israele, fonti palestinesi assicurano che la tregua doveva essere annunciata ieri sera e comunque di fatto è già iniziata. Infine, il giornale egiziano Al-Ahram sulla liberazione del soldato israeliano rapito Shalit sarebbe ritardata solo per divergenze sul nome di 4 detenuti palestinesi inseriti nella lista di Hamas. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. 13, 29 minuti, 30 secondi. Una pausa ce la prendiamo con i consigli per il pranzo del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di cuoco. Ebbene, oggi vi porto in un ristorante a Milano. Si chiama L'Altra Isola ed è in via Porro 8. Un luogo sicuramente impossibile da trovare, però con un po' di buona volontà poi alla fine ci si riesce, tra viuzze un po' particolari. Bene, però qui c'è una grande scoperta, c'è una scoperta della milanesità. Milanesità perché? Perché in questo locale si fanno pochi piatti, ma fatti veramente come Dio comanda, soprattutto milanesi. Si può cominciare con i nervetti, si può passare a un risotto al salto. Attenzione, non riso al salto, risotto al salto, perché sicuramente un grande risotto al salto è prima un risotto e poi diventa un risotto al salto, non è un riso così, diciamo, rabberciato. E poi ancora si possono mangiare il risotto alla milanese con l'ossobuco, si può mangiare anche un ottimo involtino con la verza, si può mangiare ancora una grande cotoletta e poi si può finire con uno zabaione veramente ottimo, di ottimo livello. C'è una carta dei vini dignitosa, ma soprattutto il prezzo è veramente rapportato alla qualità di questo locale. L'Altra Isola, via Porro 8 a Milano. 13 e 36 minuti, GR24 Extra Large. All'indomani della violenza ai danni di una ragazzina al parco della Caffarella a Roma questa mattina è caccia all'uomo, mentre sono giunti nella capitale i primi 15 ufficiali della polizia rumena che affiancheranno quella italiana nelle indagini. Ieri sera a Roma ci sono stati anche raid contro rumeni e il sindaco Gianni Alemanno dice non bisogna farsi giustizia da soli. Intanto il governo pensa ad un decreto d'urgenza contro la violenza sulle donne. Allo studio l'ipotesi di non concedere a chi è accusato di stupro i domiciliari. Isabella Rauti, capo dipartimento del Ministero delle Pari Opportunità. Il disegno di legge contiene misure tese a rafforzare la tutela penale contro i reati di violenza sessuale. Bisogna rivedere gli aspetti normativi per un sistema che sia più efficace e, a mio avviso, più punitivo. E poi bisogna affrontare anche il discorso, posso dire, culturale di costume. Ma l'Associazione Magistrati boccia l'ipotesi. Il segretario generale della ANM, Giuseppe Cascini. Delle misure emergenziali che creano un diritto eccezionale per singole categorie di reati non sono mai la risposta giusta ai problemi criminali. La vera risposta sarebbe nel rendere efficace l'azione investigativa, efficace il processo e l'applicazione della giusta sanzione. E in Sardegna ora la seconda e l'ultima giornata di voto per l'elezione del governatore e il rinnovo del consiglio regionale. Seggi aperti fino alle 15, poi scatterà lo spoglio naturalmente. Alle 11 di questa mattina aveva votato il 54,79%. Sono ancora gravissime le condizioni del tifoso investito ieri sera all'esterno dello stadio di Genova dal pullman della Fiorentina durante le contestazioni alla squadra viola. Al momento non sono emerse responsabilità a carico dell'autista. Tonfo del prodotto interno lordo giapponese, meno 12,7% su base annua, e ad ottobre-dicembre dello scorso anno è stato il terzo trimestre negativo consecutivo per la prima volta in 7 anni, al ritmo però peggiore degli ultimi 35 anni. Il GIP di Potenza ha deciso lo stop per un anno della concessione per la produzione di idrocarburi in Basilicata per la Total, perquisite sedi di altre società, l'accusa è di tangenti. Multa alle compagnie TIM e Vodafone, l'autorità garante della comunicazione, della concorrenza, scusate, del mercato, ha deciso una sanzione da 500.000 euro ciascuno, il massimo applicabile in questo caso, per modifica unilaterale e sistematica dei piani tariffari, senza però fornire le adeguate informative al consumatore. L'indagine era partita da una denuncia di altro consumo. 1 milione di euro al conduttore Paolo Bonolis, già polemica prima dell'apertura del Festival di Sanremo, e così poco fa la replica del direttore di Rai 1, Fabrizio Del Noce. Il festival rimane un evento nazional popolare da un punto di vista artistico e da un punto di vista mediatico, ma certamente rimane anche un business. Basta pensare che ci lavorano a occhio e croce, senza contare gli indotti vari, non meno di 2.000 persone. Quindi per quanto riguarda il compenso di Bonolis, bisogna anche parlare dell'impegno di Bonolis come direttore artistico, anche responsabilmente di far quadrare i conti. Una tegola sull'immagine di efficienza del Giappone. Perché quella che state sentendo è la voce incerta, assai incerta, del ministro dell'economia giapponese durante la conferenza stampa del G7 di Roma. Nakakawa mostrava infatti evidenti difficoltà ad esprimersi, appariva ubriaco in sostanza. Niente alcol però è stata la sua difesa, solo l'effetto di medicine prese contro il raffreddore. Fatto sta che davvero è stato un brutto colpo per l'immagine del Giappone, del governo giapponese, del primo ministro Taro Aso, che alle prese in realtà con ben altre cattive notizie, arrivate proprio poche ore fa: il crollo del PIL giapponese, che lascia immaginare davvero che anche per il paese del sollevante sia la crisi peggiore dal dopoguerra. Un dato così negativo non si registrava dal 1974, ossia dai tempi della prima crisi petrolifera. Il prodotto interno lordo giapponese è calato nell'ultimo trimestre del 2008 a un tasso annualizzato del 12,7%, soprattutto a causa del crollo delle esportazioni, a dimostrazione di come la recessione globale abbia colpito il Giappone più degli altri paesi industrializzati. Il paese, che qualche mese fa sembrava più immune dal contagio della crisi finanziaria internazionale, ha oggi un'economia 3 volte peggiore di quella americana. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui il PIL si contrae. Gli analisti ritengono che la recessione interna si stia aggravando, al punto che anche il trimestre in corso vedrà un crollo a doppia cifra. Il ministro delle politiche economiche, Kaoru Yosano, ha dichiarato che il paese si trova di fronte alla peggiore crisi del dopoguerra. La borsa comunque oggi non si è mossa molto, mentre la prima reazione dello yen è stata di rafforzamento, in quanto dal vertice finanziario del G7 di Roma non sono giunte indicazioni sulla volontà di frenare l'ascesa della valuta nipponica. Per cercare di rimettere in sesto l'economia, il governo del premier Taro Aso si appresta a preparare una nuova manovra di stimolo che potrebbe comportare una spesa intorno ai 20.000 miliardi di yen, oltre 170 miliardi di euro, ma una parte del pacchetto di misure di sostegno già annunciate deve ancora essere approvata da un Parlamento diviso, e intanto la popolarità del premier Taro Aso è scesa sotto il 10%. Stefano Carrer, GR24, Sole 24 Ore, Tokyo. E siamo allora ancora alla pagina economica internazionale, perché oltreoceano invece negli Stati Uniti l'amministrazione Obama rinuncia alla creazione di uno zar dell'auto. Al suo posto verrà creata però una task force per supervisionare la ristrutturazione dell'industria automobilistica. Tramonta l'ipotesi dello zar dell'auto, la figura destinata a supervisionare la ristrutturazione dell'industria automobilistica americana. Al suo posto, il presidente Barack Obama avrebbe scelto una task force guidata dal segretario al tesoro Timothy Geithner e dal presidente del Consiglio economico nazionale Lawrence Summers. Secondo fonti della Casa Bianca citate dai media americani, a Geithner spetterà anche il compito di supervisionare gli accordi per il prestito da 17,4 miliardi di dollari concesso a favore di General Motors e Chrysler. Entro domani i due colossi dell'auto dovranno presentare il proprio piano di ristrutturazione che, precisano le fonti, sarà analizzato in una o due settimane prima di una risposta pubblica. Secondo indiscrezioni, ognuna delle due case automobilistiche presenterà due progetti e gli analisti non escludono la possibilità di una bancarotta garantita dal governo. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E in Italia invece, come sapete, tra le misure in discussione c'è anche quella proposta dalla CGIL, un contributo di solidarietà sui redditi più elevati. Sentiamo. Divise già dal nuovo modello di riforma contrattuale, CGIL e Confindustria si confermano su posizioni diverse anche per quanto riguarda le possibili soluzioni anticrisi. A far discutere questa volta la proposta avanzata da Epifani prima e rilanciata dal segretario confederale della CGIL, Megale, poi. Una tassa di solidarietà da applicare a chi guadagna di più per aiutare chi sta peggio e i giovani precari. In pratica il sindacato di Corso d'Italia propone di tassare in modo particolare per 2 anni i redditi che superano i 150.000 euro. Si garantirebbe così un gettito di 1,5 miliardi. Con lo stipendio dei primi 100 top manager italiani, spiegano, dalla CGIL si paga l'equivalente della retribuzione annua di 10.000 persone fra impiegati ed operai. Non sono d'accordo, replica il vicepresidente di Confindustria Bombassei. Il risultato di questa operazione, spiega, alimenterebbe la lotta di classe e porterebbe alle casse dello Stato molto, molto poco. Secondo Bombassei, inoltre, non è paragonabile la situazione dei super manager americani con quelli italiani. Da noi, dice l'industriale, non ci sono stipendi scandalosi come quelli oltreoceano. Vincenzo Miglietta, GR 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:47, le notizie di oggi. All'indomani della violenza ai danni di una ragazzina al parco della Caffarella a Roma, questa mattina caccia all'uomo. Ieri sera, sempre a Roma, ci sono stati raid contro rumeni. Il sindaco Gianni Alemanno però dice non bisogna farsi giustizia da soli. Alle 15 chiuderanno le urne in Sardegna, dove si vota per l'elezione del governatore e il rinnovo del consiglio regionale. Alle 11 aveva votato il 54,76% degli aventi diritto. Vi ricordiamo il nostro speciale all'interno del giornale radio delle 19. E crisi nera anche in Giappone, tonfo del prodotto interno lordo, meno 12,7% su base annua nell'ultimo trimestre dell'anno, il terzo calo consecutivo. 1 milione di euro al conduttore Paolo Bonolis, il direttore di Rai 1 del Noce, dice mi fido solo di lui. Quant'è il giro d'affari del Festival di Sanremo? Meno uno dunque, domani riparte il Festival di Sanremo, specchio dell'Italia, sempre meno forse rispetto a qualche decennio fa, ascolti in calo, ma insomma resta un appuntamento non solo per la canzone ma anche per tutto quello che ci gira attorno. Non esclusi i costi e i guadagni, è proprio di questo si parla in queste ore, tant'è che per ora si discute proprio più che dei protagonisti del conduttore Paolo Bonolis e del suo personale incasso, 1 milione di euro. Allora andiamo sulla Riviera dei Fiori in questa vigilia di sole, Marta Cagnola. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Sì, tanto sole, diciamo che ancora poche canzoni perché il festival comincia domani. La macchina mediatica si è messa in moto però puntuale alle 12:30 con la conferenza stampa di apertura. Inevitabile, come dicevate, parlare dei costi. Intanto Del Noce ha detto o è rilancio o è crisi, non ci sono vie di mezzo, gli ascolti quest'anno saranno importantissimi, il festival sicuramente ci sarà per altri 2 anni almeno. Certo è che se gli ascolti non saranno buoni, dice, non sarà più un grande evento ma verrà ripensato in un'ottica aziendale, quindi come un normalissimo evento televisivo. Per quanto riguarda il compenso di Paolo Bonolis, confermato questo 1 milione di euro lordo, però la polemica, ha detto Del Noce, è pretestuosa perché i compensi erano in linea con quelli di Panariello e di Baudo. Ma sentiamo proprio cosa ha detto dell'impegno di Paolo Bonolis, Fabrizio Del Noce. Il festival rimane un evento nazional popolare da un punto di vista artistico e da un punto di vista mediatico, ma certamente rimane anche un business. Basta pensare pensare che ci lavorano a occhio e croce, senza contare gli indotti vari, non meno di 2.000 persone. Quindi per quanto riguarda il compenso di Bonolis, bisogna anche parlare dell'impegno di Bonolis come direttore artistico, anche responsabilmente di far quadrare i conti. Parliamo anche del risparmio. Festival di Sanremo, e quest'anno possiamo dire, anche se siamo ancora a preventivo e non a consuntivo, che il risparmio finale si aggirerà intorno al 500.000 di euro rispetto all'anno scorso, che non è una cifra da poco su un bilancio che non è già così faraonico come si potrebbe immaginare. Quindi sentite, 500.000 di euro in meno, il rilancio, l'impresa non è facile. Bonolis ha annunciato un nuovo ospite giovedì sera a Kevin Spacey, domani ci sarà Nina, perlomeno in video, anche se non si sa bene ancora come, e ci sarà Benigni, del quale ha detto avrà totale libertà di espressione. Grazie, grazie alla nostra Marta Cagnola. E se, come dicevamo, le canzoni del Festival di Sanremo sono, siamo ancora in attesa di sentirle, quella, la musica di Enrico Rava invece va alla grande. Perché quella che state ascoltando è Lulu, uno dei brani dell'ultimo lavoro del jazzista italiano più famoso al mondo, il trombettista Enrico Rava, che quest'anno festeggia un doppio anniversario, 70 anni d'età e 50 di carriera musicale. È da poco uscito New York Days, realizzato con il pianista Bollani, il batterista Motion, il sassofonista Turner e il bassista Grenadier. Enrico Rava l'ha intervistato Paolo Panceri. Beh, un percorso lungo che è stato per vari versi anche fortunato, nel senso che ho avuto la fortuna di per dire una banalità, di essere nel posto giusto al momento giusto. Ho avuto la fortuna, per esempio, di vedere i grandi, di grandissimi, grandi maestri, quelli che fanno sì che uno si sia appassionato di questa musica. Io ho visto Armstrong, ho visto Duke Ellington, mai quando era ancora al suo apice, negli anni 50, 60... Monk ho visto tutti, insomma, quindi è una cosa che i giovani musicisti non hanno vissuto quella stagione lì, quindi quella è stata una stagione speciale. Tutti questi grandissimi artisti che lei ha nominato, che ha conosciuto, che cosa comunque le hanno lasciato sia a livello umano sia a livello professionale? Io ho lavorato con quelli con cui suonavo negli anni 60 a New York, 70, quindi quelli un po' più vecchi di me o più contemporanei, come appunto Carla Bley, Steve Lacy, Chef, questi qua. Beh, ognuno lascia qualcosa, ma non si tratta di, non è solo i grandi che lasciano qualcosa, anche i piccoli lasciano qualcosa. Io ricevo molto da tutti, anche da, non so, dei ragazzini che vengono in un workshop a Siena, assimilano delle cose, come loro, cioè uno scambio continuo. Come vede adesso la scena jazzistica italiana? Ma io lo vedo buono, lo vedo abbastanza buono, ecco. Di gran lunga migliore di com'era quando incominciato io, dove eravamo quattro gatti, eccetera, alcuni anche molto bravi, anche perché oggi si può vivere di questa musica, anche senza essere strafamosi, suonando solo jazz, senza quindi bisogno di suonare in orchestre con i cantanti, eccetera. La qualità è migliorata immensamente, e anche la quantità. Come descriverebbe questo suo ultimo lavoro? È un disco che mi piace molto, devo dire, e soprattutto c'è la presenza di alcuni, per esempio c'è la presenza di quello che per me è il sassofonista più importante di oggi, e non più importante, è quello che a me piace di più, che è Mark Turner, che è veramente un caposcuola. Qui c'è un perfetto equilibrio tra lui e Bollani, per esempio, Paul Motion, che è uno dei padri storici del jazz moderno. È un disco, insomma, che mentre lo incidevamo mi ha dato molte sorprese, ecco. E questo dunque era Enrico Rava, al microfono il nostro Paolo Panceri. Termina qua questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio ha migliorato in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Pietro Lacorte. Alle 13 domani l'appuntamento con le notizie Extra Large. Buona giornata. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.